9 in punto. Ricordati! Mancano 6 giorni all'aumento dell'IVA. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia. Le notizie di attualità, quelle che riguardano Telecom Italia, sono il perfetto specchio in realtà del tema che vogliamo affrontare oggi, che è un tema che può sembrare fumoso, in realtà secondo me è inciso profondamente nella carne del paese. Quello di cui vogliamo parlare oggi è questo appiattimento, quello che il Censis definisce rattrappimento nel presente. Un'idea che il paese non sappia guardare al futuro, non sappia progettare, non sappia proiettarsi anche solo in un quinquennio, di qui a un quinquennio, ma magari anche a 10 anni, a 15 anni. Su questo tendiamo a dare la colpa alla politica o a chissà che cos'altro. In realtà forse c'è qualcosa anche dentro di noi che non funziona da questo punto di vista. Se considerate, come si citava poco fa nell'anteprima, la frase di Montanelli, siamo un paese di contemporanei, senza antenati né posteri. E perché anche la vicenda Telecom Italia ci parla di questo? Non perché, e stamattina questo ragionamento non lo vogliamo fare, ci torneremo domani su questo tema. Italianità, non italianità, non è questa la questione. La questione del pensiero strategico, insomma. Che cosa vuoi fare della più grande azienda telefonica del paese? È un'azienda che tu ritieni strategica oppure no? Puoi anche non ritenerla strategica, decidere che vada agli spagnoli, però è una cosa che devi decidere, mentre invece su Telecom ha pesato la completa indecisione. E lo stesso dicasi, firma un bel pezzo su questo oggi Alessandro Graziani sul Sole 24 Ore, quando parla di anche altre aziende, all'Italia che sembra andare verso Air France, le 3 Ansaldo, Energia, STS e Breda, che andranno presumibilmente ai coreani di Doosan, agli americani di General Electric, ai giapponesi di Hitachi. Come vedete, parliamo di fame di futuro oggi, ne parliamo in genere, cercando di capire che cosa sta succedendo nel nostro paese da questo punto di vista, questa incapacità progettuale nella quale ci troviamo, ma parliamo anche di cose molto concrete, no? Parliamo del fatto, poi noi ve lo ricordiamo tutte le mattine, che mancano quanti giorni mancano, il conto alla rovescia verso l'aumento dell'IVA. È certo che però siamo veramente sul piccolo cabotaggio. La costruzione di questo paese negli ultimi anni, negli ultimi decenni, è stata una costruzione, se vogliamo, casuale. Pensate solo al nostro sistema fiscale, che noi trattiamo quotidianamente, a tutte le norme che si sono accumulate negli anni e che si sono accumulate senza un disegno preciso di sistema fiscale o di sistema burocratico o di sistema statale. E di questo capisco che sia possa sembrare un po' alto come argomento, però come sentite è molto concreto che vogliamo parlare oggi. Vi aspetto numerosi, così come siete stati numerosi già da ieri sera sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24. Vi aspetto numerosi all'800 24 00 24. Nel corso della puntata affronteremo anche appunto il tema di Telecom. Voglio iniziare però da Giuseppe Roma, direttore generale del Censis. Buongiorno. Buongiorno. Perché siamo rattrappiti nel presente, Roma? Ma perché noi veniamo da un passato in cui la nostra capacità e la nostra anche forza di sviluppo è venuta sempre adattandoci continuamente alla situazione, perché abbiamo prima inseguito i grandi modelli, prima quello americano, poi quello tedesco, poi nel momento in cui la competizione si è fatta più dura abbiamo via via adattato svalutazioni, piccoli provvedimenti, e oggi praticamente in un contesto completamente diverso in cui i nodi vengono al pettine, cioè se non ci hai pensato prima non ti puoi che trovare in una situazione di difficoltà. Il PIL non può crescere se non hai messo in campo politiche nel tempo con una durature che non guardano soltanto all'immediato. E quindi è vero, la politica, le istituzioni dovrebbero fare questo lavoro, dovrebbero lasciare gli imprenditori, chi ha iniziativa nel creare ricchezza, però dare al paese complessivamente delle direzioni di marcia. Faccio degli esempi. Perché siamo contrari alle infrastrutture? Perché io penso che ormai questo no a tutto non è tanto un no ambientalista, è un no al fatto di non spendere dei soldi che avranno il loro beneficio fra 4, 5, 10 anni. Cosa dicono i notav? Ma questa è una cosa che se va bene ci vorranno 10 anni, invece oggi servono subito i soldi per la cassa integrazione, per il salario d'ingresso. Cioè, noi abbiamo negli ultimi 20 anni fatto prevalere una logica in cui i soldi debbono andare ad aiutare la gente piuttosto che una logica in cui bisogna aiutare il paese dandogli quelle strutture che possono poi responsabilmente ai diversi soggetti, l'impresa, il cittadino, il lavoratore, il professionista, creare ricchezza. E proprio io penso che alla base, poi possiamo accusare naturalmente tutti, la politica che è troppo frammentata, l'inesistenza di strategie paese, l'inesistenza se vogliamo anche di grandi strategie imprenditoriali, però al fondo c'è questa cultura che preferisce l'uovo piuttosto che la gallina. Dateci adesso subito un punto in meno di IVA perché così tamponiamo il tema del mercato interno, cosa giustissima per l'amor del cielo, però non abbiamo risolto il problema, cioè il reddito delle persone diminuisce perché non si crea ricchezza, e non si crea ricchezza perché cosa? Perché non abbiamo fatto la banda larga, perché non abbiamo investito. Guardi, sulla questione Telecom sono testimone, molti degli ascoltatori non erano forse ancora nati quando c'era la Stetti in Italia, sono testimone a metà degli anni 90 di un dibattito, anche di una logica in cui la Stetti cercava di resistere perché era un'azienda di Stato alla privatizzazione e aveva messo in campo un grande progetto di cablaggio delle grandi città italiane. Sono passati più di 20 anni, 25 anni quasi dal 95, e che cosa succede? Che abbiamo invece privatizzato, le privatizzazioni hanno indebolito l'azienda. Guardi che a quel momento la Telecom della metà degli anni 90 era circa 10 volte Telefonica. Oggi Telefonica compra la Telecom. Allora, Roma, mi sembra che abbiamo fatto un punto, abbiamo anche introdotto, se vogliamo, il tema di Telecom. Io voglio leggere e poi saluterò gli altri ospiti, però prima voglio leggere alcune delle cose che ci avete scritto su Facebook e poi voglio sentire i primi ascoltatori e poi andrò, no, facciamo una cosa, li saluto subito intanto. Allora, Patrizio Bianchi è un economista industriale, accademico, prestato al momento alla Regione Emilia Romagna come assessore alla scuola, formazione professionale, università e ricerca e lavoro. Buongiorno Bianchi, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. E Fulvio Lucisano, presidente del progetto Arena, ne parleremo tra poco. Buongiorno Lucisano. Francesco Lucisano. Francesco Lucisano. Chiedo perdono. Allora, leggiamo qualcosa che mi scrivete su Facebook. Non vorrei cadere nella retorica, ma purtroppo è la verità, mi scrive Carla Noia. Non abbiamo nulla da conquistare, nessun sogno da realizzare o da sognare, e a 45 anni tiriamo i remi in barca per mantenere quel poco benessere conquistato. Andrea Alboresi scrive: la pigrizia mentale di chi pensa si possa sopravvivere lasciandosi trasportare dagli eventi senza governarli, chi si lascia cogliere di sorpresa da eventi ampiamente annunciati, e questa è un'altra questione, mi piace questa sottolineatura Andrea, e si ritiene un fenomeno per aver rattoppato una voragine con un pezzo di nastro adesivo. Siamo un popolo così, la vita scorre e noi la lasciamo passare guardandola dalla riva del fiume. Alberto da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma io vorrei fare una breve considerazione, insomma. Mi ricordo il testo di Delchi, quando Manzoni nell'Ottocento descriveva gli italiani come un popolo che ormai aveva perso le antiche virtù, e noi siamo quelli, siamo una nazione giovane che non sa trovare un destino comune. L'unico destino ce l'ha dato forse, piaccia o non piaccia, il regime fascista, che ha progettato quantomeno lo Stato sociale, una politica industriale, una politica di costruzione della rete viaria, delle infrastrutture, delle scuole. Poi, passata quella calamità, siamo stati un popolo allo sbando, ecco la mia percezione. Guardi, io sto andando al lavoro e sono imbottigliato in una strada che doveva essere fatta negli anni 30 o 40, che collega la provincia di Milano con la Grande Milano, e che nessuno si è mai preoccupato di allargare, quando Milano è passata dalla Lombardia da, non so, 3 milioni di abitanti a 9 milioni, cioè nessun progetto, ma siamo noi italiani che siamo fatti così, nessuno si preoccupa di nulla. Grazie Alberto, piaccia o non piaccia, dice non piace naturalmente, insomma, però in realtà io ho l'impressione che non sia così. C'è stato un momento storico dopo il fascismo nel quale un po' di progettualità l'abbiamo recuperata, Patrizio Bianchi, in realtà è così. È così, cioè dopo la fine della guerra c'è stata la grande stagione della ricostruzione, tra l'altro con un dibattito accademico fortissimo, la figura di Pasquale Saraceno, che è arrivata sostanzialmente fino al momento in cui noi abbiamo raggiunto il risultato. Questa è la cosa che mi sembra interessante del dibattito di oggi. Noi siamo un paese di rincorsa, cioè la cultura del paese è quella di un paese in ritardo. Tutte le volte che dobbiamo fare una rincorsa siamo straordinari. Tutte le volte che raggiungiamo il risultato dello sviluppo e quindi della responsabilità internazionale dello sviluppo, ci fermiamo. E questo è un punto. Ma quello che oggi però mi sembra importante segnalare è non tutto il paese uguale. Anzi, dopo 7 anni di crisi globale, dopo 10 anni di euro, dopo 15 anni di globalizzazione, quello che si vede è la frattura interna del paese, anche nel sistema delle imprese. Noi oggi abbiamo un quarto del nostro sistema che sta crescendo. Sta crescendo moltissimo, sta crescendo a livello internazionale e è anche più competitivo dei tedeschi. E 4.000-5.000 imprese di media dimensione nel settore meccanico soprattutto, oppure nel settore dei prodotti di consumo, ad esempio alimentare, però di altissima qualità. Quindi una strategia implicita per uscire dalla crisi in realtà c'è. Ed è questa che hanno seguito queste imprese. Però è implicita ed estremamente individuale, per così dire, Bianchi. È individuale, collettiva, intuitiva, non è, se non a volte in una chiacchiera molto astratta, una strategia paese. Però la cosa che vorrei far notare è che gli altri 3/4 delle imprese a loro volta sono molto differenziate. Ce ne sono alcune che con un piccolo sforzo potrebbero diventare operatori internazionali di grande qualità, ce ne sono un gruppo che abbiamo mantenuto in vita con l'ossigeno della cassa integrazione, ma dopo 3-4 anni sono comunque morte, c'è un altro gruppo che in realtà richiederebbe forti interventi di relazione fra di loro. La politica industriale moderna non è un decreto con cui si salva il paese, ma è esattamente quello che diceva anche Roma, cioè un'autorità di governo che dà una visione del paese, che libera il campo da vincoli e vincoletti, che genera quelle infrastrutture di lungo periodo e che poi lascia il mercato muoversi. Guardi che questa cosa l'hanno fatto i francesi, l'hanno fatto i tedeschi e l'hanno fatto gli inglesi. Senta Bianchi, lei che ne capisce più di me, ho sbagliato ad inserire in questo discorso la vicenda della vendita di Telecom a Telefonica, la vicenda dell'acquisto delle 3 Ansaldo da parte degli stranieri, la vicenda del probabile acquisto di Alitalia da parte di Air France? Lei che dice? Sono collegati fra di loro. Telecom, Alitalia e il pezzo Ansaldo sono i 3 pezzi di privatizzazione dell'IRI che non vennero gestiti direttamente dall'IRI ma che vennero gestiti dal Tesoro, nella convinzione che bastava quasi privatizzarle senza una regolazione pubblica adeguata perché poi il mercato avrebbe determinato il resto. Quando si fanno delle politiche industriali, e le privatizzazioni dell'inizio anni 2000, fine anni 90, furono una grande politica industriale, non dimentichiamolo. Furono la prima volta dopo gli anni 30 che il governo decise di vendere le proprie attività. Però cosa è successo dopo? Che non puoi fare le cose a metà. Quindi tu hai sempre l'impressione in questo paese che fai le robe e poi arrivi a un certo punto, poi ti spaventi. La Telecom venne privatizzata. Ma poi non avendo in un qualche modo deciso in maniera chiara come dovesse essere la proprietà successiva, questa poco alla volta divenne l'oggetto dell'assalto di tutti coloro che volevano prendersi qualcosa da spolpare. E questa è anche Alitalia, e questa è anche Ansaldo. Cioè la politica industriale è un pensiero di lungo periodo, non è una serie di atti inconsulti di volta in volta per attaccare delle pezze. Ed è esattamente secondo me questo il tema. Allora, voglio sentire un altro ascoltatore e poi andiamo da Lucisano. Sentiamo Andrea da Padova, buongiorno. Svezia. Prego. Per me unire il ragionamento Telecom e all'Italia e Ansaldo indirettamente vuol dire dover fare necessariamente dei nomi e dei cognomi, cioè il problema di adesso è un problema che viene dal passato. Abbiamo avuto questi due imprenditori, Tronchetti Provera da un lato e Colaninno dall'altro, forse con maggiori responsabilità, che hanno ereditato in modo più o meno meritato questi contenitori e li hanno distrutti, ok? Creando le condizioni perché a un certo punto tutto questo venisse perso. Loro se ne sono usciti con i loro conti assolutamente in attivo, le società sono rimaste. Il problema, secondo me, è questo: dobbiamo dare dei nomi e dei cognomi ai responsabili di queste cose. Il piano, le Sì, prospettive industriali. Andrea, allora, guardi, questo discorso io lo capisco benissimo e poi vorrei affrontarlo meglio nella puntata di domani, sicuramente. Su questo non c'è dubbio, insomma. Detto ciò, però, a me interessa anche il ragionamento sulla strategia, cioè insomma se ne parla sempre spesso, cioè che ogni tanto un paese deve decidere quali sono i suoi, diciamo, asset strategici, no? Non diciamo imprese perché insomma se decidiamo che lo Stato non è proprietario, però deve avere i suoi asset strategici sui quali decidere se puntare oppure no. Una può essere l'infrastruttura telefonica, tanto per fare un esempio, insomma, l'altra può essere una compagnia di bandiera perché ti può essere utile per una serie di altri motivi. E poi decidere di puntarci, oppure decidere di non puntarci. A me quello che preoccupa è un po' l'assenza di strategia ed è quello che mi sembrava dicesse anche Bianchi. Voglio sentire Lucisano brevemente, prima di andare in pausa, così lo chiamiamo in causa. Devo salutare Giuseppe Roma, se non sbaglio. Roma può rimanere con noi o se ne deve andare? Posso rimanere qualche minuto ancora, sì. Può rimanere qualche minuto ancora. Allora, Lucisano, allora, ci spieghi che cos'è RENA e ci dia qualche germe di futuro, per favore. Sì, diciamo, io a parte che ho un po' di ritorno al microfono, RENA pensa che in Adesso realtà vediamo, quando adesso bisogna vediamo fare se nomi e Car cognomi per il declino del paese bisogna partire a guardarsi in faccia noi e forse siamo tutti azionisti di minoranza del declino del paese. Per rispondere a questo turbamento, RENA è un'associazione indipendente di cittadini che fa volontariato civico. Cioè, che cosa pensiamo? Pensiamo che per dare voce a questa fame di futuro, quindi che è fame di cambiamento, non bisogna agire sulla offerta di cambiamento, quindi non bisogna fare nuove leggi, nuove regolazioni, non bisogna fare nuove proposte politiche, bisogna lavorare sulla domanda. E la domanda siamo noi, sono i cittadini. E quindi come si fa ad alimentare una domanda di futuro? Perché altrimenti poi, se non c'è domanda di futuro diffusa, se non c'è domanda di visione diffusa, le radio continueranno a parlare di 100 giorni, le imprese continueranno a guardare la trimestrale. Allora bisogna addestrarsi tra cittadini. Per esempio RENA fa una scuola di buon governo e cittadinanza responsabile che offre a cittadini, piccoli amministratori pubblici, eccetera, per insegnarci a vicenda come si programma il futuro per i territori. Oppure ancora una cosa molto importante, andare nelle scuole per raccontare il mondo globalizzato che la generazione dei soci di RENA, che ha 25-35 anni, ha vissuto in anteprima. E per raccontarla ai ragazzi delle scuole che in questo momento sono veramente accartocciati su una narrativa di assenza di possibilità, quando invece il mondo di oggi ne offre tantissime. Quindi sostanzialmente l'idea è agiamo sulla domanda di cambiamento, sulla domanda di futuro, perché francamente di 100 giorni in 100 giorni si muore. La crisi ci dà questo senso di urgenza, no? Abbiamo aperto la puntata con la campana che suonava mancano 6 giorni all'aumento dell'IVA, però ci fa dimenticare che è proprio per questo senso di urgenza e per questa incapacità di guardare lungo che siamo in crisi, è proprio perché i politici hanno sempre dovuto rispondere ai sondaggi anziché alla programmazione di lungo periodo o perché appunto le aziende quotate vengono valutate sulla base dei risultati trimestrali quando magari un investimento si realizza e lo sanno benissimo gli imprenditori che sono all'ascolto. specialmente un investimento in ricerca e sviluppo, si realizza in 10 anni. E ancora, appunto, i 100 giorni si muore perché la stampa ci abitua a un orizzonte di attenzione che si esaurisce sui temi in pochissimo tempo. E quindi non ci accorgiamo che i fenomeni che noi dovremmo guardare, che la politica dovrebbe governare, sono fenomeni di lungo periodo. Di lungo periodo. Allora, il futuro. Su questo punto la interrompo perché abbiamo una pausa. Mi faccio intanto rispondere a un paio di ascoltatori. Innanzitutto Danilo che dice: ha interrotto la telefonata perché era in difficoltà sul nome con la Nino. No, assolutamente. Domani, e io avrò detto domani ci torneremo su questo, ci saranno anche i nomi naturalmente. Non c'è problema, Danilo, caro. Un'altra risposta agli ascoltatori, sono molti che scrivono: chiaritevi le idee. Prima volete le privatizzazioni e poi lamentate che le aziende private passino in mani straniere. Guardi, io non sto lamentando niente in questo momento e agisco a giornalista, cioè sto esattamente nel mezzo tra le due posizioni, tra chi dice no, non devono andare in mani straniere, sì, va bene se vanno in mani straniere. Faccio un ragionamento di strategia, cioè quando privatizzi, quando prendi delle decisioni di questo tipo, devi avere anche una strategia per imprese che puoi ritenere, tipi di imprese che puoi ritenere più o meno strategiche. Il ragionamento è questo, magari sbaglierò o magari no, chissà. 9 in punto. Va bene, allora ripartiamo di nuovo da Alessandro Lazzarini perché mi sembra che questa cosa non sia stata capita. Mi scrive su Twitter: quando si prova a parlare di nomi di manager nababbi che spolpano e distruggono aziende, cambia discorso. Allora, di manager, di chi ha gestito questa vicenda Telecom, come vi ho già detto, parliamo domani. Oggi stiamo cercando di parlare anche e soprattutto di altro, e dunque vi leggerò qualcosa di quello che mi avete scritto ancora su Facebook. Scrive Guido Emaldi: quando si percorre il sentiero del vivere preoccupandosi solo del proprio orticello, del coltivare le amicizie utili, di fregarsene delle cose giuste che vengono fatte e non quelle che fanno più comodo al proprio tornaconto, di smettere di pensare seguendo in modo acritico quello che dicono capo, responsabile, politico di turno, quando non ci si rende conto del proprio analfabetismo funzionale, si galleggia nel presente ricordandosi e vantandosi di un passato onorato da altri. Il futuro non appartiene a chi vive in questo modo. E ancora Luigi Rosa: siamo il paese dei no alla TAV, al cavalcavia, al capannone, alla ricostruzione, agli OGM, ai rigassificatori, ai termovalorizzatori, alle paleoliche, ai farmaci, all'informatica, ai centri commerciali, alla perdita di italianità, a internet. Come i bambini piccoli sappiamo solamente dire no e come gli abitanti dei piccoli paesini conosciamo solamente la politica del NIMBY. Che futuro volete che abbia una popolazione così? Qualcuno che dice sì si prende l'orgoglio della responsabilità, questo mi piace molto, chi dice no alla comoda presunta superiorità dell'opposizione che non propone nulla. Allora Roma, ritorniamo a bomba su quello che ci diceva all'inizio. Ma, secondo me anche queste notazioni degli ascoltatori sono molto pertinenti, ma vorrei aggiungere un altro elemento, cioè noi abbiamo perso 7-8 punti di PIL, perché? Perché non siamo efficienti, perché ci sono degli extra costi, perché tutto quello che vogliamo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo guardare, avere una visione del nostro futuro, la dobbiamo avere, perché se non ce l'abbiamo noi continuiamo a marciare con gli occhi bendati senza sapere dove stiamo andando. Faccio due riferimenti per cui bisogna avere una visione di futuro. Il futuro è nell'internazionalizzazione all'estero e noi siamo bravissimi, diceva giustamente Bianchi, abbiamo un'industria che soprattutto quella che non ha aiutato nessuno, che quindi o ha innovato o è dovuta crescere se no moriva, che sulla palla c'è, è all'estero, esporta, conquista mercati, ma noi abbiamo tutto il resto dell'economia, proprio quella che poi ci vengono a comprare in Italia, quella dei servizi, quella niente la consulenza, quella dei settori terziari. Pensiamo quanti esportano, non so, imprese che sanno gestire i rifiuti. Noi abbiamo un problema di rifiuti in Italia, figuriamoci se riusciamo ad andare all'estero. Per fare questo, cioè per allargare i nostri mercati, che è la nostra unica salvezza se vogliamo aumentare il PIL, certo, il nostro mercato interno ormai non è qualcosa che se io non aumento l'IVA, aumenti i consumi e le nostre industrie alimentari crescono perché gli italiani comprano solo i beni italiani. I mercati di consumo, anche i mercati interni hanno i loro limiti, perché magari le macchine non le compreremo quelle italiane, compreremo quelle straniere, così come i telefonini e così via. Quindi il punto vero è che tu devi guardare al futuro, perché devi andare a conquistare degli altri mercati anche con quelle imprese che invece, rattrappite sul presente, cercano di rimanere in Italia a difendere il loro orticello. Secondo esempio per cui ci vuole il futuro, ci sono alcune cose tipicamente italiane su cui noi non adeguatamente cogliamo le opportunità che abbiamo, penso diciamo al settore del turismo, della cultura, eccetera, su cui l'Italia dovrebbe fare come l'Arabia Saudita fa col suo petrolio, cioè lo dovrebbe valorizzare al massimo. Ma come facciamo a fare operazioni di questo genere? Sono operazioni integrate, bisogna avere una direzione di marcia comune, da chi gestisce i beni culturali fino a chi porta con gli aerei le persone in Italia. Come si fa a integrare i diversi interessi, diversi soggetti, diverse anche culture, diversi business all'interno di un'unica, diciamo, contenitore, che è quello che poi ti dà i risultati anche in termini di PIL? Cioè, se noi non guardiamo al futuro non come una cosa che è anche bella e nobile, il desiderio di i desideri, le passioni, no, che diciamo così è un modo sentimentale di guardare al futuro. Il futuro è una cosa molto concreta. Se uno non ha una strategia, se un'impresa non ha una strategia e cerca di tamponare il suo bilancio anno per anno, alla fine scompare, perché è la strategia. Magari ti può anche andare male, puoi anche avere una visione sbagliata, ma su 100 che possono sbagliare ce ne sono migliaia che invece con una strategia possono risollevarsi. Ecco perché abbiamo necessità assoluta di guardare un po' più in là del nostro naso, e questo naturalmente poi i primi che lo dovrebbero fare sono i partiti, perché i partiti, le istituzioni, la politica, perché è evidente che questo dà una serietà al paese che non può essere contrattata giorno per giorno. Insomma, la stampa di questa mattina ci fa vedere una differenza abissale con la Germania, insomma, no? Lì ci sono 3 o 4 deputati di differenza. Insomma, ha pensato che si potesse trovare un accorgimento, come vuol dire, nel presente, no? Tutti hanno detto, io non potevo governare a quel punto. Deve essere un patto di legislatura, non può esserci uno scilipoti, diciamo. Esatto. Questa è la sostanza. Grazie Giuseppe Roma, buona giornata. Arrivederci. Benvenuto a Stefano Quintarelli, deputato di Scelta Civica, un uomo che di futuro si è occupato parecchio, perché è uno dei pionieri del digitale in questo paese, con il quale vogliamo anche, insomma, un commento a quello che ha sentito da Roma, a quello che ha sentito nel corso della trasmissione, e anche possibilmente un suo commento sulla vicenda Telecom. Per quanto... Grazie Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Ci possiamo dare del tu? Sì, perché insomma è inutile fingere, diciamo. Esatto. No, il commento è questo. Il commento è che l'Italia è un paese vecchio, questo è un dato di fatto, no? Ve leggevo una statistica che indicava che nel 2050 il 18% della popolazione avrà più di 80 anni. Ora, è già un paese vecchio, le elezioni si vincono con i voti dei pensionati. I pensionati, una persona di una certa età tende a pensare ai bei tempi andati, a rimpiangere il passato, ad avere paura del futuro, anche perché la crisi economica, tutto quello che succede, questa diavolo di tecnologia che non si capisce. Allora non mi sorprende il fatto che la politica abbia smesso di pensare al futuro molto tempo fa. Io ricordo che nel 2000 c'era il forum per la società dell'informazione presso la presidenza del Consiglio. Io sono particolarmente affezionato alle tecnologie, non per altro, ma perché la tecnologia è quello che plasma la società, no? Cioè dalla rivoluzione industriale in poi non ci può essere un futuro senza tecnologia, e non ci può essere un modo più efficiente e più efficace di fare le cose, in grado di sostenerci nell'invecchiamento della società, senza usare la tecnologia. Ora, nel 2000 c'era il forum per la società dell'informazione presso la presidenza del Consiglio. Abbiamo dovuto aspettare il governo precedente per vedere la cabina di regia per l'agenda digitale. Io sono uno degli autori di quel manipolo di autori che hanno iniziato un famoso manifesto che è stato pubblicato il 31 di gennaio del 2011 in gran segreto, scritto sul Corriere della Sera, un appello: diamo all'Italia una strategia digitale, firmato da 100 persone che erano i principali industriali, dirigenti, giornalisti, economisti che hanno sottoscritto questa cosa. La reazione a quello si è dovuta attendere un paio d'anni, nel senso che subito c'è stata qualche reazione tipo: ma no, abbiamo già fatto tutto, non c'è più niente da fare. Prima di quella data il tema agenda digitale, se uno va a cercare nell'archivio del Corriere della Sera, c'era 3 o 4 volte, cioè le parole occorrevano 3 o 4 volte. Da quella data in poi c'è stata una svolta. Ora, quello è stato un appello proprio per sollecitare la classe politica tutta a pensare al futuro, perché aveva smesso. Io credo che questo però appunto sia una conseguenza del fatto che il paese è vecchio e dal mio punto di vista la nostra classe dirigente guarda di più al passato che non al futuro. Adesso abbiamo un Parlamento che è molto giovane, è il più giovane della Repubblica, è altrettanto vero che i posti chiave di dirigenza e di alti posti all'interno del Parlamento, del governo eccetera, salvo qualche rara e mirabile eccezione, sono comunque in mano a persone che hanno una certa età e che non sono figlie del futuro, fammi dire, non sono persone proiettate nel futuro, no? C'era chi diceva: io ho questo mio collaboratore che è la mia internet personale. Ci sono persone che si vantano di non aver mai usato internet, che pensano che internet sia dentro il Parlamento? Certo, sì. Parlamento. Meraviglioso. Meraviglioso. Allora, abbiamo una pausa per la viabilità, poi ti voglio risentire. Voglio un piccolo approfondimento su questa cosa qua e poi però una battuta su Telecom, su questa vicenda di Telecom la vorrei sentire da te. 9 in punto. Prima di ritornare da Stefano Quintarelli c'era Patrizio Bianchi e mi hanno detto che voleva intervenire per correggere alcune cose. Prego, Bianchi. Questo discorso che stiamo facendo sta prendendo una piega pericolosa. Quintarelli dice: un paese vecchio, dobbiamo avere ragazzi dappertutto. Attenzione che l'esperienza non è una cosa campata in aria, cioè è un modo per diffondere conoscenze. Il problema non sono i vecchi e i giovani, sono la incapacità di comunicazione fra gruppi sociali, e questo è sicuramente un pezzo di politica in cui anche Quintarelli saprà. Però il punto fondamentale è questo: guardate che noi in Italia oggi abbiamo 5.000 gruppi, come dicevo prima, che stanno crescendo. Non ha più senso di parlare estero e Italia. Questo è il punto che salta. Noi continuiamo a riportare delle dinamiche economiche che sono globali, mondiali, dentro ad uno scatolino di dimensioni nazionali in cui sembra che tutto debba essere riportato al suo interno. La politica industriale moderna è il contrario, è quello di riuscire ad aprire, far rendere capaci le persone, le imprese, di muoversi nel grande contesto. Quindi lo Stato deve fare queste azioni di contesto che permettono ad ognuno di esprimere quello che ha, non di immaginare che la nuova strategia sceglie un settore o sceglie l'altro, perché in un qualche modo la nuova strategia rende strategico il fatto che abbiamo 5.000 imprese che devono crescere, devono diventare 10.000, 20.000, 30.000, dopodiché che siano giovani, che siano vecchi, più siamo meglio è. Un saluto. Grazie Patrizio Bianchi. Allora, io Quintarelli, Stefano, io non so se vuoi rispondere, però io adesso voglio i nomi. Mi hai detto che ci sono dei deputati che si vantano di non aver mai utilizzato internet. Voglio i nomi. C'è il peccato, non il peccatore. Si dice il peccatore. No, quanti allora, sono? Un numero, non i nomi, ma un numero. Capita di sentirli. In merito alla replica precedente, io non ho detto che ci vogliono giovani dappertutto, ho detto che ci vuole una classe dirigente che sia figlia di questi tempi. Ora, il giovane, che cosa vuol dire giovane? In Francia Hollande aveva fatto il Ministero per l'Economia e lo Sviluppo Digitale, la Germania il Ministero è il Ministero dell'Economia e dell'Innovazione Tecnologica, il Ministro ha una quarantina d'anni. Cioè, non credo che possiamo chiedere a una persona di 75 anni di conoscere queste dinamiche, che sono fondamentali per dare supporto all'internazionalizzazione, perché senza sapere, senza conoscere queste, cos'è la frontiera della tecnologia nel mondo, non siamo in grado di dare il supporto necessario, perché è vero, il mercato è globalizzato, internet è uno dei più principali punto, strumenti per globalizzazione. Punto, allora, punto chiarissimo, ti chiederei brevemente, perché poi voglio sentire gli ultimi due o tre ascoltatori, ti chiederei brevemente un commento sulla vicenda Telecom. Beh, la vicenda Telecom, io ho lavorato a un'analisi dei bilanci di Telecom tra il periodo 99 e 2006 e dei principali fatti societari. Le conseguenze che stiamo vivendo oggi sono figlie di quel periodo lì, del periodo tra il 99 e il 2006, che ci fu una campagna espansiva. Ma è un'operazione, è un'operazione negativa o positiva secondo te? Qual è il tuo giudizio? Allora, intanto osservo che Telefonica ha ridotto i diritti di voto aumentando le azioni, perché altrimenti potrebbe esserci un conflitto con le antitrust. Non so la Consob che cosa possa dire su questo fronte, perché comunque il passaggio di un controllo, non occorre avere il 30% per avere il controllo senza passare dalla borsa, questo sul piano domestico. Sul piano internazionale osservo che Telefonica è presente in tutti i paesi all'estero dove Telecom Italia è rimasta, cioè Brasile e Argentina. Evidentemente questo porterà a dei cambiamenti di assetto, anche perché in Argentina ci sono delle pulsioni forti di nazionalizzazione, era già stato parlato di un'ipotesi di nazionalizzazione di Telecom Argentina, che è la società di Telecom Italia in Argentina. E in Brasile ad ogni piede sospinto cercano di fare l'operatore mobile nazionale, per cui qualche cosa, allora accadranno delle cose all'estero per effetto delle sovrapposizioni con Telecom Italia, che cioè io sono veramente curioso di vedere se sarà Telefonica a vendere il proprio pezzo in Sud America o se sarà Telecom Italia a vendere il proprio pezzo. Ma è un'operazione positiva o negativa? Secondo te una svendita? Il mio giudizio non è positivo. Il mio giudizio non è positivo, è assolutamente positivo. Temo che questo rallenterà il processo che si era iniziato di scorporo della rete, che è a mio avviso l'unica strada per evitare misallocazioni di investimenti e allineare gli interessi degli operatori locali per la costruzione di un'infrastruttura di nuova generazione, che è una delle cose che servono al rilancio dell'economia digitale in Italia. Quindi credo che per il sistema paese questa non sia un'operazione positiva. Grazie Stefano Quintarelli. Brevissimi, Vittorio da Milano, buongiorno. Niente, qualche ascoltatore ha già toccato questo tema, però io andrei più alla base del problema Italia. Siamo un paese di furbastri, senza senso civico, evasori fiscali. Abbiamo, allora, se ancora adesso più condanno Berlusconi, più danno il consenso, se ancora per 20 anni la gente ha votato Berlusconi. Abbiamo avuto Tremonti che per 8-9 anni ha fatto il ministro dell'economia, che non ha fatto altro che fare condoni. Come possiamo pensare che qualcosa veramente, se non, ancora non riusciamo a levarci di torno questa cosa qua? E poi voglio fare un appunto a lei, ai giornalisti in generale. Prego, prego. Sono sempre benvenute le critiche, Vittorio. I vostri opinionisti, che possiamo definire neutrali o indipendenti, però dovrebbero avere il coraggio di fare dei nomi e dei cognomi, no? Perché non è possibile che alla fine sì, anche i giornalisti dovrebbero dire no, basta, Berlusconi siamo stanchi, le persone per bene non lo vogliono più, Berlusconi e questa gente qua. Quindi voglio dire, è da lì che voglio dire... Vittorio, mi scusi, questa è la sua opinione, invece chi sostiene se io facessi una cosa di questo genere, chi sostiene Berlusconi si imbestialirebbe e direbbe che sono un giornalista squilibrato. Quindi abbia pazienza, anche sto ragionamento che fate, dovete fare i nomi, dovete dire, insomma, un attimo di calma, perché c'è anche un'altra parte che richiede, per così dire, imparzialità. Ma guardi, capisco la critica dal suo punto di vista, però tenga anche presente questa esigenza. Carlo, da Alessandria, 20 secondi se ce la fa. Ce la fa? Sì. Sì, velocemente, grazie, buongiorno. Buongiorno. Per me uno dei problemi più grossi dell'Italia è che il sistema scolastico non seleziona la classe dirigente. Io ho vissuto negli Stati Uniti, con tutti i difetti che hanno, anche in Francia. In Francia l'amministrazione pubblica esce dalla scuola ENA, che è difficilissima. Negli Stati Uniti la classe dirigente viene scelta direttamente nelle università, addirittura gli sportivi vengono scelti con quel sistema. E chi ha bisogno sa esattamente chi si va a prendere. Poi il problema Carlo, dobbiamo chiudere, la ringrazio. Allora, come promesso, domani torniamo sulle vicende di Telecom Italia e, se vogliamo, anche di Alitalia. Nel frattempo ringraziamenti a Carmelo Lauricella in regia, Laura Fagin in redazione, le ragazze del centralino, ovviamente tutti voi per l'ascolto. A domani. Ricordati! Mancano 6 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.